Vai, a te ci rimetti le mani. Piace il formaggio grana, Michele? Piace il formaggio grana? Sì. Beh. Posso sempre vedere? Cosa? Io voglio prendere. Ma la prendi! Lascia andare. Non prendi tu, eh? No, infatti via. Bella. Dove la sarà? La cucina si affretta di mangiare. Dopo buttini, dai, quando è finito dopo? Vai a giocare.